si sono presi il nostro mondo sotto stelle a sei punte. Quei bambini morti piccoli con speranze mai raggiunte. Fu uno stato terrorista, occhi maligni e faccia uguale. Fu lo stato sionista, figlio di un maiale. C'è un popolo di merda eletto da Yahweh. I mostri genocidi sempre pronti a bombardare. In estate e d'inverno, con l'appoggio del governo italiano o americano, Giacobbe è sempre lì. Chiesi a un uomo è un brutto sogno, Adolfo disse sì. C'è un popolo di merda eletto da Yahweh. Sognai la terra libera dal potere sionista. E il vento che cambiava con voce ancor più forte. Sionisti genocidi, sionisti maledetti. La pace non si ottiene se restano gli eletti. C'è un popolo di merda eletto da Yahweh. Quando restan di un bambino solamente ossarotte, non si può più perdonare quei bastardi a sei punte. C'è un popolo di merda eletto da Yahweh. Si son presi il nostro mondo sotto stelle a sei punte. Quei bambini morti piccoli con speranze mai raggiunte. Fu uno stato terrorista, maligni e faccia uguale. Fu lo stato sionista, figlio di un maiale. C'è un popolo di merda eletto da Yahweh.